Il martirio, anche se non cruento, del nostro beato scosse allora il mondo, cari amici. Infatti, alla morte di padre Damiano da Wester nel 1889, il Times scrisse: «Questo prete cattolico è divenuto per tutta l'umanità un amico». La notorietà lo aveva già accompagnato in vita, fin dal giorno in cui questo nostro beato era partito per il lebbrosario di Molokai, portando con sé soltanto due cose: il breviario e il crocifisso. Tre giorni dopo il suo arrivo sull'isola, il giornale delle Hawaii, l'Advertiser, già lo definiva un eroe cristiano. E perfino allora molti protestanti, per onorare quella sua partenza così simile a un martirio, in effetti andava incontro alla morte e lo sapeva, andarono in quei giorni a messa nella cattedrale cattolica di Honolulu. Honolulu era ed è la capitale delle Hawaii. Ma dobbiamo anche dire che di missionari generosi che sacrificano la vita è piena la storia della nostra Chiesa. Quindi perché porre l'attenzione proprio su questo giovane belga di 33 anni che accettava di andare a vivere tra i lebbrosi? Non era poi neanche il primo missionario a fare quella scelta, perché la stampa internazionale aveva deciso di porre la sua attenzione su di lui. In più, all'inizio, il suo stesso vescovo lo aveva inviato a Molokai solo per qualche tempo, probabilmente una quindicina di giorni, tanto per cominciare a organizzare tra i missionari disponibili dei turni di presenza nell'isola, quell'isola che allora veniva già definita maledetta, e vedremo perché. Padre Damiano invece sapeva in cuor suo che era per sempre questa sua partenza. L'aveva scritto anche ai suoi superiori appena giunto lì. «Voi sapete», scrisse, «come la penso. Voglio sacrificarmi, dare la mia vita per i lebbrosi». I superiori, un po' per non contrariare l'opinione pubblica, un po' perché di fondo nessuno desiderava andare o aveva il coraggio di vivere con quella gente, allora il contagio era altissimo, decisero di lasciare il nostro beato. Infatti divenne padre Damiano dei lebbrosi. Ma proprio dietro a queste vicende, la provvidenza del Signore tracciava per questo ragazzo uno strano destino. Doveva diventare, come vedremo, il lebbroso di tutto il mondo. E qui Damiano, quando nacque il 3 gennaio del 1840 a Lovanio, in Belgio, ancora non si aveva una conoscenza accurata dal punto di vista medico della lebbra. Hansen ne identificò il bacillo nel 1871, quindi due anni prima che Damiano partisse per Molokai. Ma con quel bacillo le tecniche di laboratorio non servivano, non si riusciva ad isolarlo e quindi non si riusciva a creare un vaccino che lo combattesse. La lebbra restava un male terribile allora che non si poteva curare, di cui non si conoscevano oltretutto le vie di trasmissione. Era la malattia più pericolosa di quei tempi, anche se nei paesi occidentali era rara. Nel 1850 la malattia cominciò a diffondersi in maniera rapida e terrificante in quella terra che allora sembrava un paradiso terrestre, proprio l'arcipelago delle Hawaii. Proprio quella terra sembrava destinare, anzi, ad essere il ricettacolo di tutte le malattie del mondo. Pensate che in un secolo, dal 1770 all'870, si erano succedute epidemie di colera, di vaiolo, di morbillo, di sifilide. Insomma, da 250.000 abitanti, la popolazione era scesa a 50.000 e ora giungeva questa nuova maledizione che era la lebbra. In un documento del tempo di allora si legge: «Questo popolo diventerà in pochi anni una nazione di lebbrosi. Siamo sull'orlo di un baratro pieno di lordure in cui i nostri piedi stanno lentamente scivolando. E la lebbra vi era definita malattia nauseabonda, incurabile, mortale». Ma il dramma, cari amici, era ancora più profondo di quanto non apparisse. Infatti gli abitanti dell'isola consideravano tutte quelle sventure come una maledizione portata dagli stranieri che avevano invaso le isole con i loro commerci, i loro interessi e le loro corruzioni. Gli stranieri, al contrario, incolpavano di tutto i nativi dell'isola. Insomma, il conflitto esplodeva anche nel quando si trattava di decidere come arginare questa epidemia. I collaboratori occidentali della casa regnante, allora c'era la monarchia, premevano per una assoluta e rigida segregazione di tutti i malati e dei casi sospetti. Chi invece era nato in quell'isola, i nativi, consideravano i legami familiari e i legami di sangue più importanti della stessa malattia. Così scienziati, politici, autorità religiose, soprattutto quelle calviniste che allora dominavano, avevano potere sull'isola, predicavano la segregazione come un alto dovere morale. Si leggeva in un documento dell'Associazione Evangelica di allora: «Bisogna persuadere tutti ad obbedire alla legge di Dio e insegnare a ogni lebroso che si attacca ai parenti e rifiuta di andarsene, che sta peccando contro la vita degli uomini e contro le leggi divine». E gli insegnamenti dell'Antico Testamento a questo riguardo venivano ripresi alla lettera. La lebbra era vista come una maledizione divina e come tale andava trattata. Insomma, in base a questi argomenti era stato realizzato proprio un insediamento, l'insediamento di Kalawao, nell'isola di Molokai. Era un promontorio basso, roccioso, spoglio, ed era tra la scogliera e il mare, scelto proprio perché era inaccessibile. Insomma, a partire dal 1866, ogni mese da Honolulu, la capitale, partiva una nave carica di lebbrosi requisiti a forza. Ma voglio farvi anche il racconto di uno dei testimoni di queste cose, che scrive: «Era uno spettacolo orribile. I parenti e gli amici degli infelici lebbrosi non potevano separarsi dagli amati partenti. Senza il minimo timore di contrarre la lebbra, essi se li tenevano fortemente stretti tra le braccia e li ricoprivano di interminabili baci. E ogni volta che uno degli esiliati si allontanava dalla folla per andare a prendere posto nell'imbarcazione, era un'improvvisa esplosione di grida di disperazione, di forti lamenti, di gemiti tali che solo i disperati possono lanciare verso il cielo. Era, dice questo testimone, come il pianto lugubre dell'agonia che esplodeva e moriva in un ultimo grido d'angoscia. E in ogni distretto la polizia prelevava a forza uomini e donne sospetti di lebbra e li inviava così al centro di raccolta nella capitale, dove un medico decideva della loro sorte. Se la diagnosi era lebbra, si aprivano irrimediabilmente le porte di quello che veniva chiamato già allora l'inferno dei vivi o il cimitero dei viventi. E alla partenza ci si doveva preparare come per la morte, cioè facendo testamento, provvedendo ai figli, eccetera. Ma tutto questo avveniva tra la ribellione dei parenti. I malati venivano allora addirittura nascosti. I nuclei familiari si trasferivano per questo anche nei villaggi più sperduti, si nascondevano addirittura nei crateri spenti dei vulcani e alla polizia ci si opponeva anche con le armi. E non era infrequente il caso di amici e di parenti che si fingevano malati proprio per accompagnare i loro cari. Si giunse a permettere a qualche congiunto di partire coi malati, e molti lo facevano anche se sapevano che era per sempre, da lì non sarebbero più tornati. Nei primi tempi quasi ogni lebbroso di Kalawao aveva anche il suo accompagnatore. E qui i bianchi non riuscivano a capire atteggiamenti di questo genere da parte degli indigeni. Per loro il problema lebbra voleva dire assenza di ogni contatto, anche se si trattava dei propri congiunti. Ma questo invece per gli hawaiani, il contatto umano, anche fisico, restava un valore irrinunciabile, più importante di ogni pericolo e della stessa morte. Quindi, cari amici, questa colonia dei lebbrosi venne aperta nel 1865 e fino al 1873, anno in cui vi giunse padre Damiano, nessun bianco vi aveva mai soggiornato. Era passato sì in fretta però qualche medico che visitava i malati sollevando le vesti con la punta del suo bastone e lasciava le medicine fuori dalla porta dell'ambulatorio. Era passato anche qualche pastore protestante che predicava però da lontano sulla veranda. Ma non volevano essere toccati, e per la verità gli hawaiani non se ne curavano proprio, anzi, sospettavano che i bianchi interessasse soprattutto il loro sterminio e che le loro cure e le loro medicine fossero un inganno. Pensate che chiamavano il Ministero della Sanità, che era allora in mano agli europei, Ministero della Morte, e minacciavano di incendiare le piantagioni di zucchero, che era poi il vero interesse degli stranieri, se non venivano modificate le leggi di segregazione. E a Molokai si vedevano i malati versare per terra, ridendo, i flaconi delle medicine e usare queste bottiglie per conservare il tabacco. Non potevano, pensavano loro, essere veramente interessati quei bianchi che fuggivano via pieni di orrore al solo vederli. Ma anche tra i lebbrosi stessi, l'amore e la solidarietà era soltanto limitata alla propria famiglia. Il resto, anche gli altri lebbrosi, erano e restavano nemici. Così la colonia, questa colonia, era veramente un inferno, non solo per quello che accadeva ai corpi, che i nemici soggetti a un disfacimento orribile, ma ancor più per quello che accadeva alle loro anime e a quella società. Già la corruzione dei corpi era orribile a vedersi. Vi si parla allora di aspetto del malato che diventa spaventoso, di mani le cui dita si distruggono e si accartocciano diventando simili ad artigli, di ferite marce fedite che diventano sede di migliaia di parassiti. Si parla di faccia che si sprofonda verso l'interno. Ma prima comunque di aggiungere qualcosa è necessaria una premessa. Stiamo raccontando la vita di un gigante della carità che in mezzo a questi orrori visse per anni, dando a questo ambiente la sua carica di amore, portando veramente Gesù Cristo in mezzo a queste persone, al punto che qualche malato di lebbra giunse a dire che avrebbe preferito non guarire se questo avesse comportato, come vedremo, l'allontanamento di padre Damiano. E questo, cari amici, è tutto un dire se pensiamo che il male, dicono le relazioni mediche di allora, sembrava usare addirittura una specie di crudeltà intelligente. Infatti, prima l'ulcerazione si muoveva su tutta la superficie del corpo e solo alla fine cominciava a intaccare gli organi essenziali. In questo modo il malato era costretto ad assistere da vivo alla sua stessa corruzione e perfino l'aria diventava irrespirabile intorno a lui. E allora ogni lebbroso custodiva soprattutto con cura due oggetti. Uno era uno specchio in cui spiare giorno per giorno, ci viene detto con ossessionante ostinazione, i progressi del male sul proprio viso, e un coltello di legno per pareggiare le punte delle dita man mano che diventavano insensibili. E se questa era la rovina fisica, quella psicologica e quella morale si accompagnavano adesso con un crescendo spaventoso. Infatti un'incredibile sporcizia, mancava perfino l'acqua, una violenza pronta ad esplodere ad ogni provocazione, l'esasperazione degli istinti peggiori, più bassi, l'abolizione di ogni limite sessuale, la schiavizzazione dei bambini, delle donne, l'alcolismo, la droga, il ladrocinio, il risorgere addirittura di pratiche idolatriche e superstiziose. Tutto questo era peggiorato dal disinteresse generale. Il governo aveva previsto che la colonia diventasse autosufficiente col lavoro della terra e della pastorizia, ma i lebbrosi ai lebbrosi non interessava affatto, li avevano imprigionati che li mantenessero loro. E in effetti, cari amici, erano abbandonati totalmente, non avevano un'abitazione, né ospedali, né dispensari, né chiese, neanche cimiteri. All'arrivo dei nuovi lebbrosi, anzi gli anziani, si affrettavano a inculcare quella che era la massima suprema su cui la colonia si reggeva. Dicevano: qui non c'è nessuna legge. Ed era questa frase continuamente proclamata in pubblico e in privato. L'abbandono aveva distrutto ogni senso di dignità e abusi abominevoli erano ormai all'ordine del giorno. Anche per questo a Molokai era stato dato il nome di inferno. Abbiamo detto e abbiamo, diciamo, visto un po' quello che succedeva per avere un'idea più chiara di quello che quest'uomo, questo nostro santo della carità, andrà a fare in mezzo ai lebbrosi. Quando padre Damiano, 33enne, religioso della Congregazione dei Sacri Cuori, vi giunse nel 1873, dopo 8 anni dalla fondazione dell'insediamento, vi erano già stati portati a forza 797 lebbrosi, dei quali più di 300 erano deceduti. Ma in quel solo anno ne saranno trasferiti sull'isola più di quanti ne erano stati portati in tutto il periodo precedente. Al momento quindi del suo arrivo c'erano 600 malati oltre agli accompagnatori e lui era l'unico europeo, l'unico bianco. Giunse, dicevamo prima, con due cose, con il breviario e un piccolo crocifisso. Le prime settimane visse all'aperto, dormendo sotto un albero e mangiando su una roccia piatta. E scelse subito di immergersi volontariamente in quel mondo di disperati, di senza speranza. Ciò che più lo sconvolgeva era proprio questo odore persistente che quando i malati gli si stringevano attorno, lo prendeva alla gola, ed egli lo percepiva come una specie di bruciore, quindi per aiutarsi, per attenuare anche questo odore, cominciò a fumare la pipa che gli divenne poi abituale. Dopo qualche settimana dall'arrivo, scriveva ai confratelli: «Tutta la mia ripugnanza verso i lebbrosi è scomparsa». Non era proprio così, cari amici, ma il rifiuto di ammettere quella ripugnanza anche a se stesso fu il modo scelto per donarsi completamente alla sua missione senza nessuna riserva. Comprese subito, da quella che era la sua grande carità, che i malati non lo avrebbero mai accettato se avesse cominciato a preservarsi, a usare precauzioni, a evitare i contatti, a mostrare ripugnanza, come facevano tutti gli altri. Infatti, fin dalla prima predica, scelse di non cominciare con il tradizionale «fratelli miei», ma disse semplicemente «noi lebbrosi». E di poter essere contagiato non si preoccupava. Diceva di aver affidato la questione a Gesù, a Maria Santissima e a San Giuseppe, del quale era un po' il suo santo protettore, ecco. I superiori intanto gli scrivevano sempre di badare al contagio. Ricordo che non c'era nessuna medicina, e quindi presa la lebbra, la fine era certa. Ma egli sapeva che era assolutamente inutile essere andato a Molokai se restava uno di quelli che per definizione rifiutavano di toccare. Infatti era difficile per un sacerdote rifiutarsi di toccare quando bisognava deporre l'ostia consacrata su lingue rose dal male, o ungere con l'olio santo mani e piedi cancrenosi, o bendare con tenerezza quelle orribili piaghe, o anche solo prendere in mano la corda delle campane su cui si erano arrampicati per gioco i bambini. Raccontano che un giorno, mentre fasciava una piaga particolarmente brutta a vedersi, fu lo stesso lebbroso a dirgli preoccupato: «State attento, padre, potreste prendervi il mio male». «Figlio mio», gli rispose padre Damiano, «se la malattia mi porta via il corpo, Dio me ne darà un corpo glorioso, in paradiso». Apostolo pieno dell'amore di Gesù e di una profonda carità verso i fratelli, a tavola mangiava con loro il poi, che era una carne mescolata con farina di taro, intingendo le mani assieme ai lebbrosi nel piatto comune. Beveva nelle tazze che gli offrivano, passava la sua pipa se gliela chiedevano, giocava coi bambini che si gettavano a grappoli addosso quel gigante buono. E scriveva alla fine del suo secondo anno di permanenza: «Con le lacrime agli occhi semino la buona novella tra i miei poveri lebbrosi, e dalla mattina alla sera sono immerso in una miseria fisica e morale che spezza il cuore, ma cerco di sembrare sempre allegro per stimolare il coraggio dei miei fratelli. Presento loro la morte come la fine dei loro mali, se si convertono sinceramente. Molti, dice e scrive padre Damiano, molti vedono arrivare la loro ultima ora con rassegnazione, altri invece con gioia. E durante quest'anno ne ho visti un centinaio morire in ottime disposizioni di cuore». E proprio la preparazione alla morte era il senso della sua missione e del suo apostolato. Infatti non c'era altro da fare, cari amici, impossibili e inutili le cure, certa era soltanto la morte. Talmente certa che il governo hawaiano aveva deciso per un periodo di dichiarare tutti i deportati di Molokai legalmente morti. Pensate un po'. E quindi cosa faceva questo nostro apostolo? Insegnava la grandezza e il valore della sofferenza, questa loro malattia, l'offerta al Signore. Insegnava a morire bene perché potessero acquistare soprattutto senso, dignità, perfino gioia, quella parvenza di vita che ancora restava a queste persone. Padre Damiano sapeva che tutte quelle morti lo riguardavano e non era e non voleva essere assolutamente solo uno spettatore. Voleva essere veramente Gesù in mezzo a loro, e lo era. Cominciò allora con il costruire un cimitero e a dare quasi dignità alla morte di ognuno di loro. Se si pensa che al suo arrivo i corpi venivano, alcuni magari interrati, ma molti altri lasciati all'aperto, c'era il disinteresse totale anche tra loro, e gli animali facevano il resto, si può comprendere, cari amici, la dignità di chi si mette a costruire un cimitero. Ci viene descritto come uno steccato bianco, una grande croce, terra consacrata. Sembra perfino incredibile, ma fu tale il senso di dignità provocato da questo semplice fatto, nessuno voleva più morire come una bestia, che il giornale purtroppo allora dei protestanti hawaiani, scusate il gioco di parole, protestò contro quella iniziativa che a loro dire permetteva a padre Damiano di aumentare il numero dei convertiti. Si legge in questo giornale, che accusava padre Damiano, il predicatore papista ha notato che i cadaveri sono un problema per la gente, essendo abbandonati all'aperto. Visto che pensa solo a convertire la gente alla sua religione, ha ordinato del legname ad Honolulu per uno steccato. Il materiale è arrivato e il recinto è stato costruito, ma questa è una trappola per catturare la selvaggina che sbaglia strada. Ecco cos'è quel cimitero. Ovviamente non era così. Possiamo anzi immaginare la grande sofferenza di questo nostro santo, di questo nostro apostolo. Ma non si scoraggiava, anche lui offriva a Gesù tutto quello che era un po' un martirio, anche questo essere continuamente accusato, come lo vedremo anche in futuro, non lo lasceranno mai in pace. Da notare poi che questo cimitero non era per soli cattolici, era per tutti. Ma era chiaro, cari amici, che tutti finivano per affidare anche l'anima a colui che con tanta tenerezza si curava anche dei loro corpi. È ovvio, cioè già la testimonianza vera erano sì le sue parole, ma soprattutto il suo atteggiamento. Si sentivano amate queste persone, ed erano veramente amate. A chi dovevano donarsi? A chi dovevano credere? A chi andava lì a rischiare la vita per loro, come ha fatto padre Damiano? Dobbiamo dire che anche i protestanti si occupavano dei malati raccogliendo e amministrando elemosine, chiedendo anche interventi legislativi e culturali. Ma nessuno di loro, fino a quel momento, aveva avuto il coraggio di andare a vivere tra i lebbrosi, e mai lo ebbero fino a quando padre Damiano fu in vita. Quindi, diciamo che un po' si scusavano, o perché si rifacevano all'Antico Testamento, oppure i pastori che dicevano di non poter vivere tra i lebbrosi perché avevano moglie e figli, ma proprio questa missione finiva poi per sottolineare l'importanza del celibato dei sacerdoti cattolici, che non avendo né moglie né figli, erano pienamente aperti all'apostolato a cui il Signore li metteva davanti. E qui, oltre al cimitero, il nostro padre fondò anche la confraternita dei funerali, che si preoccupava, e dovevano fare tutto, non c'era nulla, quindi lui cominciò da zero, si occupava di preparare le bare di legno, di accompagnare poi pregando il defunto al cimitero al suono della musica e al ritmo dei tamburi. A Kalawao, spiega un biografo, quello era un modo, forse l'unico, di venire a patti con la vita e con la morte grazie al decoro e alla solidarietà della confraternita dei funerali e anche grazie ai sacramenti. Al di fuori, dice questo biografo, al di fuori di questa fragile comunità, vigeva solo un brutale orrore. Addirittura il nostro padre aveva voluto costruire il cimitero vicino alla sua casa e aveva riservato per sé il posto vicino alla grande croce. Scriveva in una lettera: «L'altro giorno non potevo fare a meno di essere irritato perché qualcuno aveva cominciato a scavare una fossa vicino alla grande croce, proprio nel posto che io mi ero scelto tanto tempo fa. Solo insistendo potei tenere libero il mio posto. Poiché il cimitero, la chiesa e la casa parrocchiale sono su un terreno unico, io sono l'unico guardiano notturno di questo bel giardino di tanti fratelli che sono andati nell'aldilà, tutti i miei figli spirituali, e mi piace andare lì a dire il Santo Rosario, a meditare sulla felicità eterna che molti di loro già godono e anche sulla infelicità eterna di alcuni che nulla vollero obbedire, quindi che non vollero ascoltarlo». E conclude con questa bellissima frase, cari amici. Dice padre Damiano, scrivendo a questo confratello: «Ti giuro, fratello mio, che il cimitero e il letto dei moribondi sono i più bei libri di meditazione che ho per preparare la catechesi». Arriviamo al 1880. Dopo 7 anni di permanenza a Molokai, tutti i lebbrosi che aveva conosciuto al suo arrivo erano morti e la colonia si era interamente ripopolata. Ma anche qui, oltre alla morte, c'era anche una grande alla dignità, alla speranza che dava tanti cuori. La festa più grande dell'isola, che aveva poi realizzato padre Damiano con gli anni, era quella del Corpus Domini. La processione solenne attraversava tutte le vie del Lebrosario ed era così imponente che si commuovevano perfino i protestanti, allora abituati dovunque a osteggiarla e disprezzarla come idolatria. E a Molokai anch'essi si scoprivano il capo, e pensate, nel 1874, dopo una processione, una ventina di essi chiesero addirittura il battesimo. Padre Damiano aveva perfino introdotto anche la pratica dell'adorazione perpetua. I turni e gli orari, di giorno e di notte, non era facile osservarli, ma quando un adoratore, uno dei lebbrosi, non poteva occupare il suo posto in chiesa per la malattia, lo faceva a casa, nella sua capanna, inginocchiato sul suo giaciglio e pregava. Ma quello che commuoveva davvero erano le cerimonie sacre e soprattutto il coro. Questo coro, sappiamo che gli hawaiani hanno una spiccata sensibilità per la musica, ma era cosa unica al mondo, pensate, vedere eseguire una messa di Mozart con il pianista che doveva suonare con un pezzo di legno attaccato alla mano perché non aveva le dita. E anche se il coro doveva spesso cambiare i cantori, comunque lo si faceva volentieri. Doveva cambiare spesso i cantori il coro, perché poi dopo un certo periodo la lebbra attaccava anche alla gola, quindi non potevano più né parlare ovviamente né cantare. Voi pensate, ma il nostro padre non si era fermato a questa cosa, era andato oltre. Con l'aiuto del Signore, con la sua grazia, aveva creato la confraternita della Santa Infanzia per i bambini abbandonati, poi quella del suo grande santo protettore di San Giuseppe, che si occupava delle visite dei malati a domicilio, e quella della Madonna per l'educazione delle ragazze. Ma soprattutto, cari amici, bisogna sottolineare che queste confraternite furono soprattutto delle strutture di convivenza civile e di aiuto sociale e spirituale che nessun altro aveva saputo neanche immaginare per quell'isola dimenticata da tutti. E se il nostro beato comprese subito l'importanza che il contatto fisico aveva per quei fratelli ultimi abbandonati, possiamo immaginare con quale intensità comprese anche tutte le loro necessità fisiche e materiali. Non parliamo delle costruzioni di chiese e di cappelle, questa era una passione che aveva coltivato fin dai primi anni della sua esperienza missionaria, quando da solo portava sulle spalle travi che quattro hawaiani non riuscivano neanche a spostare. Ma a questo bisogna aggiungere tutte le opere che egli intraprese nell'isola, facendosi progettista, architetto, sterratore, muratore, carpentiere e quant'altro necessitava. Costruì addirittura un porticciolo per facilitare l'approdo delle navi, realizzò la strada di collegamento tra il porto e il villaggio, due acquedotti e relativi serbatoi d'acqua, poi una serie di magazzini, uno spaccio, un edificio di raccolta per i nuovi arrivati, due dispensari, due orfanotrofi, e un centro di formazione per ragazze. Iniziò anche la costruzione di un ospedale, dove pensava di sperimentare le nuove cure che in quegli anni venivano proposte dal Giappone e dal Madagascar. Dava in questo modo un senso a quella che era la vita di questi poveri e ultimi, e apriva loro soprattutto la grande speranza della felicità eterna, della passione di Gesù, della preziosità della loro sofferenza. Ma tornando a quelle che erano le sue occupazioni nel tempo libero, quello che gli restava dopo la visita ai malati e soprattutto l'assistenza spirituale, era talmente vasto questo suo campo di apostolato che di riposo ne aveva ben poco. E ripeteva, citando San Paolo, «Mi sono fatto lebbroso tra i lebbrosi per conquistarli tutti a Cristo». E proprio questo suo donarsi lo rese caro a moltissimi. Gli aiuti economici non mancavano, mezzi e materiali gli giungevano con abbondanza. La commissione ministeriale di Gene dapprima lo contrastò, poi invece si rese conto di quello che stava facendo, gli offrì la carica di sovrintendente di Molokai con una paga annua di $10,000, che era una cifra enorme. Ma il nostro beato rispose che lì non ci sarebbe rimasto 5 minuti in più neanche con una paga di $100,000, ma ci stava solo per amore di Dio. Scrisse a questo proposito: «Se accettassi una paga per il mio lavoro, mia madre non mi riconoscerebbe più per suo figlio». E intanto la principessa reggente delle Hawaii, lei stessa gli fece assegnare invece anche la decorazione di commendatore dell'ordine reale. Qui anche lui la accettò perché i principi regnanti erano tra i suoi più grandi benefattori, ma non la portò mai. Diceva padre Damiano che questa cosa non si adattava al suo abito sdrucito e vecchio. Ma quello, cari amici, che lo faceva soffrire di più, e come non comprenderlo, era la sua solitudine di sacerdote. Mi spiego meglio. Fin dagli inizi aveva chiesto ai superiori di inviargli un confratello che vivesse con lui. Ne aveva bisogno soprattutto per che cosa? Per confessarsi, ma anche per avere un aiuto in quelle grandi necessità in cui si trovava immerso. Non poterono però aiutarlo. Infatti le leggi, per contenere la diffusione del contagio, si erano fatte severissime. Quindi chi entrava nell'isola lo faceva per sempre e non poteva più uscirne. Non c'era medicina. Una volta addirittura impedirono di sbarcare al suo provinciale, che si era recato a fargli visita. Qui cosa fece padre Damiano? Non facendolo sbarcare, lui prese una barchetta e andò vicino a questa nave, dove c'era il suo provinciale, e si confessò gridandogli i peccati da lontano in francese. Qualche altro missionario, più intraprendente, trasgredì gli ordini e si recò a trovarlo, dandogli qualche conforto. Il padre stesso fece qualche rapido viaggio e lottò fino a quando quella disposizione, cioè di impedire ai missionari di andare su quell'isola, venne abolita, almeno per i missionari che si recavano lì non per malattia, ma per svolgere il ministero. Un aiuto finalmente gli venne mandato nel 1881, dopo 8 anni, ma fu una croce in più. Perché? Perché questo era un confratello pieno di sospetti e di problemi, che gli rese la vita praticamente ancora più amara. Non era mai d'accordo su nulla, su quanto il padre aveva realizzato. Alla fine non gli restò che scrivere ai superiori, ma i superiori, dobbiamo dire sinceramente, non stimavano molto il nostro padre. Non erano molto contenti di lui, infatti si erano già infastiditi all'inizio per il troppo clamore suscitato attorno alla sua impresa, ma lui non aveva fatto nulla, avevano fatto tutti gli altri. Questo suo coraggio, questo suo andare incontro ai fratelli, donando la vita, aveva sconcertato gli altri e quindi aveva fatto parlare molto, molto di lui. Avevano comunque questi superiori continuato a guardarlo con sospetto. Si diceva che gli passasse per mano un fiume di denaro, che fosse anche troppo indipendente nelle sue decisioni, che aspirasse a diventare una specie di vescovo indipendente di quella sua colonia di lebbrosi. Ma, d'altro canto, sappiamo che i santi di croce, se non hanno le croci, non sono santi. In più, alcune proteste pubbliche che padre Damiano aveva rivolto al Ministero della Sanità, proprio riguardo al trattamento obbrobrioso riservato ai malati e lebbrosi, avevano messo l'intera missione di questi padri in difficoltà con il governo delle Hawaii. E qui il provinciale fece addirittura pressione sul vescovo che scrisse a padre Damiano chiedendo di smetterla di fare, voi pensate un po', di fare tanta poesia sui lebbrosi. Il mondo, gli scrisse il vescovo, ha l'impressione che voi siate alla testa dei vostri lebbrosi e fungiate da procuratori di beni, da medico, infermiere, becchino e così via, come se il governo non esistesse. Credo che la cosa che facesse padre Damiano allora era soprattutto non tanto l'aiuto fisico o materiale, anche quello, ma soprattutto era, dicevamo prima, dare speranza, calore a questi cuori ultimi e abbandonati. Infatti padre Damiano rispose a questa lettera del vescovo dicendo: «Dagli stranieri, cioè da quelli che erano al di fuori, oro e incenso, dei superiori la mirra, cioè l'amaro». Ma il Signore vegliava secondo per secondo su di lui, e nel 1886 proprio la provvidenza mandò al nostro padre un collaboratore prezioso. si chiamava Ira Barnes Dutton. Era un ex ufficiale della guerra di secessione, ispettore dell'esercito americano. Divorziato, alcolizzato, convertito però a 40 anni al cattolicesimo, aveva provato prima la vita dei trappisti per 2 anni nel famoso monastero dei Getsemani nel Kentucky. Uscito, lesse su un giornale un articolo dedicato ai lebbrosi di Molokai. Vendette ogni proprietà e all'insaputa di tutti partì per quell'isola dove si mise a completa disposizione di padre Damiano. E divenne fratel Giuseppe, fabbro, falegname, muratore, insegnante, sorvegliante degli orfanelli, sagrestano, divenne quindi l'uomo di fiducia di padre Damiano. Servì, pensate, per 20 anni lebbrosi. Nell'88 si aggiunse un altro laico, era il cattolico irlandese James Sinnett, inviato come infermiere dal comitato di igiene. Intanto, padre Damiano, da qualche tempo non si faceva più sentire dai superiori, quindi non scriveva più, e questo insospettì un pochino il provinciale. Era successo però una cosa che non si aspettava, almeno in quel momento. Era diventato lebbroso anche lui. Se n'era accorto per caso una sera, tornando stanco dal suo solito giro apostolico. Era sovrappensiero e aveva immerso i piedi in una bacinella d'acqua calda. Aveva visto subito arrossarsi la pelle e formarsi delle vesciche. Stupito, aveva toccato l'acqua con la mano, era bollente e non se n'era accorto. Aveva perso la sensibilità degli arti inferiori e seppe così d'aver contratto la lebbra. Scrisse allora al superiore generale e disse: «Non sorprendetevi troppo se dopo essere stato decorato con la croce dell'ordine reale, lo sono stato anche con quella più pesante e meno onorevole della lebbra». E qui il dottor Arning, il più celebre microbiologo dell'epoca, di passaggio per Molokai, lo visitò e confermò la diagnosi. Ed egli scrisse ancora umilmente ai superiori e disse: «Sono diventato lebbroso. Penso che non tarderò ad essere sfigurato. Non avendo alcun dubbio sul vero carattere della mia malattia, io resto calmo, rassegnato e felicissimo in mezzo al mio popolo. Il buon Dio sa bene ciò che vi è di meglio per la mia santificazione e ogni volta ripeto con tutto il cuore: sia fatta la tua volontà». E al fratello Panfilo, il fratello, pensate, la cosa curiosa è che questo fratello di padre Damiano, che era entrato prima di padre Damiano nella congregazione di Sacri Cuori di Gesù e di Maria, era lui che doveva partire per la Hawaii, non padre Damiano. Il Signore volle che questo suo fratello si ammalasse di tifo, quindi non partì, e il nostro beato si offrì, sentiva nel cuore che doveva partire lui, e quindi andò lui. Il Signore gli aveva già preparato la strada. Scrisse allora, in quei momenti, era il 9 novembre dell'87, a suo fratello, e scrive padre Damiano: «Spero di essere eternamente riconoscente a Dio di questo favore. Il male affretterà un po' e renderà più diretta la mia strada verso la celeste patria. In questa speranza lo accetto come la mia croce personale e mi sforzo di portarla, secondo l'esempio di Simone il Cireneo, al seguito del nostro divino maestro. Aiutatemi con le vostre preghiere, ve ne supplico, affinché io trovi la forza di perseverare e di arrivare serenamente alla sommità del Calvario. Benché la lebbra abbia già fatto qualche danno al mio corpo, sfigurandomi un poco, continuo a essere forte e robusto. Gli immani dolori che soffrivo un tempo ai piedi sono scomparsi. La malattia, scrive padre Damiano, non ha attaccato ancora le mani. Continuo quindi a celebrare la Santa Messa. Questa grazia mi consola, sia per i miei interessi spirituali, sia per i miei numerosi compagni di sventura». Intanto i rapporti con i superiori ancora non miglioravano, nonostante questa cosa. La notizia che l'eroe di Molokai, come lo chiamavano, era divenuto lebbroso, fece il giro del mondo e suscitò una nuova ondata di solidarietà. Quindi belle parole e soprattutto molte offerte, e anche i problemi di sempre si acutizzarono. In più il provinciale era preoccupato dalle conseguenze che quella malattia poteva avere per la missione, e quindi gli consigliò di non mettere più piedi fuori dall'isola. E gli scrisse, in modo abbastanza duro dobbiamo dire, gli scrisse: «È mio dovere, carissimo padre, farvi conoscere le decisioni prese dal consiglio provinciale e non da me. Abbiate pazienza. Nel caso che voi, il provinciale scrive a padre Damiano, nel caso che voi non vogliate tener conto di queste decisioni, vi sono due luoghi dove potete andare, alla missione o all'ospedale di Caaco. Alla missione voi sarete rinchiuso in una camera che non potrete abbandonare fino alla vostra partenza, altrimenti voi rischiereste di mettere la missione in quarantena, perché i bianchi, sapendo che ospitiamo un lebbroso, avrebbero paura anche di noi che non siamo lebbrosi. Se invece volete andare a Caaco, nei sobborghi di Honolulu, voi andrete nella cappella dei lebbrosi senza potervi celebrare la messa, perché né padre Clemente né io consentiremmo di celebrare la messa con lo stesso calice e con gli stessi paramenti usati da voi, e le stesse suore si rifiuterebbero di ricevere la comunione dalla vostra mano. Dobbiamo dire, cari amici, che erano dei motivi, diciamo, anche dettati dal buon senso sotto certi aspetti. Era però il tono che era veramente crudo e asciutto, quindi era proprio dettato da grande anche irritazione, no? E d'altro canto questa è una croce che il nostro padre si porterà fin quasi alla tomba. Cosa fece padre Damiano? Non era preoccupato tanto per lui, quanto per il fatto che non poteva più uscire dall'isola per cercare di aiutare, di portare quindi sull'isola, di chiedere nuovi aiuti ed aiutare quindi soprattutto i lebbrosi. Allora scrisse al vescovo che fece una cosa molto bella, come vedremo, e gli scrisse: «Il rifiuto imperioso che sembra espresso più dalla voce di un agente di polizia che da quella di un superiore religioso, come se la missione dovesse essere messa in quarantena solo che io mi fossi mostrato a Honolulu, mi ha fatto tanta pena, lo confesso sinceramente, che non ne ho sofferto mai tanto fin dalla mia infanzia». In effetti era sinceramente addolorato. Cosa fece allora? Si recò comunque all'ospedale di Honolulu per confessarsi proprio dal vescovo, che ci andò naturalmente con un po' di anche di timore, no? Perché non sapeva come era accolto. Vescovo che invece, dopo averlo ascoltato, contagio o non contagio, lo abbracciò con cuore, piangendo, convinto d'aver confessato un santo. E qui padre Damiano si fermò ancora qualche giorno all'ospedale e lo stesso re dell'Hawaii venne personalmente a ringraziarlo di tutto quello che egli faceva per i suoi sudditi lebbrosi. Qui il padre, che non perdeva tempo, ne approfittò subito per chiedergli la costruzione di un nuovo acquedotto rispetto al fatiscente che avevano già sull'isola. Ma soprattutto il suo grande dolore, quello che gli restava nel cuore, la spina che gli restava nel cuore, erano le grandi incomprensioni con i superiori, perché ovviamente soffriva moltissimo per questa cosa, pur restando sempre nell'obbedienza, naturalmente. E pensate che animo, in un quaderno personale che aveva preso a scrivere in quel tempo, si leggono questi consigli che egli dava direttamente a se stesso. Scrive così padre Damiano, scrive a se stesso, dice: «Prega per ottenere lo spirito di umiltà, in modo da desiderare il disprezzo. Se vieni schernito, devi gioirne. Non lasciamoci incantare dalle lodi degli uomini. Non siamo soddisfatti di noi stessi. Siamo grati a chi ci causa dolore o ci tratta con disprezzo e preghiamo Dio per loro. Per fare questo c'è bisogno, oltre che della grazia, di una grande abnegazione e di una costante mortificazione, grazie alla quale veniamo trasformati in Cristo crocifisso». E continua padre Damiano: «San Giovanni della Croce pregava sempre così: O Signore, possa io essere disprezzato perché ti amo». E dice, e scrive: «Meditiamo frequentemente sullo scherno che Cristo dovette sopportare di fronte a Pilato, il viso coperto di sputi, la corona di spine, il bastone, il mantello scarlatto e Barabba preferito a lui». E arriviamo così, cari amici, a quella che sarà la sua morte. E proprio qualche mese prima di morire, quando ormai era diventato, come viene descritto, il più orribile lebbroso di tutta l'isola, lo colpì ancora una volta la lama del dolore che gli provocò la calunnia. La calunnia, cercavano di infangare lui e anche la sua missione. E proprio alcune personalità del mondo protestante ci viene detto da questi documenti, da sempre gelose di questo sacerdote cattolico, lo stavano calunniando, e dobbiamo dire in modo veramente disgustoso. Nebbe, ci viene detto, il cuore spezzato, e tuttavia trovava la forza di scrivere. E scriveva a questo proposito: «Io procuro di salire molto dolcemente la via della croce e spero di trovarmi presto alla sommità del mio Golgota». Dobbiamo dire che il Signore, la consolazione, una delle tante consolazioni che gli diede, fu anche che a pochi mesi dalla morte ebbe la notizia che le prime suore, sempre della sua congregazione, erano destinate all'ebbrosario, stavano arrivando. Arriviamo nel febbraio del 1889 e la lebbra si aggravò con violenza, corrodendogli il naso, le guance, il collo. Ma padre Damiano non conobbe mai quegli eccessi di disperazione a cui soccombono i lebbrosi nell'ultimo stadio. Soffriva e pregava. E soprattutto chiedeva che pregassero per lui, a questi suoi tanti fratelli. Riuscirono a fatica a fargli cambiare anche il pagliericcio su cui giaceva per terra con quello che poteva essere un letto normale. Il 16 marzo si alzò a fatica. Il 31 marzo, siamo nell'89, ricevette i sacramenti e poi disse: «Dio mi chiama a celebrare la Pasqua con lui». Poi le piaghe del viso e delle mani cominciarono a chiudersi, la crosta a farsi nera. Era il segno della fine, lui lo sapeva e lo faceva anche notare, ne aveva visti tanti morire. Il 3 aprile ebbe un leggero miglioramento, ma molto breve. Durante la lunga notte diceva: «I miei cari lebbrosi, i miei cari lebbrosi». Lui sapeva benissimo che erano fuori, a frotte, a gruppi, a pregare continuamente per lui. Il 14 aprile divenne cieco, rantolava, tuttavia continuava a recitare il Santo Rosario, premendo con forza la mano di fratel Giuseppe. Nella notte entrò in agonia e spirò dolcemente il 15 aprile del 1889. Quando morì, il lunedì santo, aveva 49 anni e ne aveva passati 16 tra i suoi fratelli lebbrosi. E l'eco di quella morte fu tale che le foto che gli fecero furono diffuse in tutto il mondo a migliaia di copie. E nel 1893 veniva eretto anche a Honolulu una croce di granito rosso, col ritratto di padre Damiano scolpito in marmo bianco. Possiamo dire che è strano il destino di questo nostro padre, costretto a finire spessissimo sulle pagine dei giornali, oppure sulla corrispondenza ufficiale della sua congregazione, perfino in mano ad artisti, letterati, pittori, fotografi. Proprio lui, pensate, che viveva nel luogo più sperduto del mondo, in mezzo ai lebbrosi, ma il Signore voleva così. Addirittura nel 1898 le Hawaii entrarono a far parte degli Stati Uniti d'America, e qui le leggi federali permettono a ogni Stato di collocare nel Campidoglio a Washington due statue di propri personaggi illustri. Le Hawaii finirono per proporre nel 1969 la statua del re Kamehameha, che era l'eroe nazionale che aveva unificato le isole dell'arcipelago alla fine del secolo XVIII, e dopo di lui anche la statua di padre Damiano. E l'artista, pensate, la cosa singolare, l'artista a cui venne affidata l'opera, lo scolpì in modo quasi provocatorio proprio all'ultimo stadio della malattia. Lo scolpì già lebbroso, coi tratti del volto deformati, ma ancora cari amici in atteggiamento di aggirarsi, con bastone e mantello, per i sentieri di quella che era la sua isola amata, in visita ai suoi fratelli così cari, con l'amore e la carità di sempre.